Carlo, al lavoro stai andando? No, sono appena rientrato. Oh, no, sai perché? L'ho confuso con l'altro bip, invece questo è il 2009, no? Esatto, Marco, ciao. Stavo mangiando qua e ho sentito il bip. Giuro, l'ho confuso con quello del presidente. Infatti io ho detto, questo è Carlo che sta andando a lavoro in macchina. No, negativo, sono rientrato prima perché eravamo anche in troppi, allora ho preso un permesso e me ne sono andato. Anziché uscire alle 21, sono rientrato adesso. C'è qualcun altro, anche un segnale tipo 8, intorno a 8 così, avanti, chi vuole entrare? Così ho finito di mangiare, dai. Poi se ci sia anche Natalino all'ascolto e tanti altri. Natalino, ci sei? Vabbè. No, stavo sentendo stamattina, e purtroppo è stata una notte tragica, non ho dormito niente, stamattina ero nel dormiveglio, ho sentito che parlavate qua e che hai optato per quell'apparecchio lì. Come ti trovi? Primo impatto? Primo impatto positivo perché ha i numeri belli grandi nel display LCD, no? È molto molto grandi, quindi diciamo abbastanza semplice. Ha il menu dove poi selezioni alcune funzioni, poi ha un altro sottomenu, premendo il tasto push a lungo, capito, ti dà altre funzioni. Niente, c'è il dual watch, la scansione, frequenza, oppure banda, se vuoi canali o la frequenza, insomma tante, ancora ci sto prendendo mano, però è abbastanza intuitivo e non è difficile da utilizzare. Appunto ricordo che i menu sono praticamente, se premi il tasto F più premi la mano per i canali c'è un certo tipo di menu con alcune voci, se tieni premuto il tasto F invece, cioè tenendolo premuto, un altro menu, poi se premi aspetta un'altra cosa, forse la mano per la stessa dei canali, un altro menu ancora, li hanno un po' suddivisi in tre attivabili con tre diciamo modalità diverse. Avrei preferito un menu unico, come nel 2009, vabbè. Però, vabbè, un bel apparecchio, esce bene, tutto, riceve bene. Io gli ho portato alcune migliorie che ritenevo, vabbè, quasi indispensabili. E cosa ti volevo dire? Purtroppo a me in macchina con l'apparecchio mi fischia. Ha un innesco, ha un rientro di VRF da qualche parte, o dall'alimentazione o dal cavo del mic. Le ho provate tutte, antenna con base magnetica, antenna con massa effettiva, dall'accendisigari, diretto dalla batteria. Ho provato a cambiare mic, abbassare la potenza, le ho provate tutte, quelle che mi venivano in mente. Però niente da fare, con l'apparecchio in macchina fischia, non lo posso usare, peccato. Ok, io in macchina questo non l'ho provato, lo sto provando a casa, c'ha la potenza regolabile, RF gain, insomma, il clear per quando va in banda laterale, è abbastanza semplice, non è poi così complicato. Qualcuno mi aveva detto che forse scaldava un po' troppo, però per adesso lo sto utilizzando sui 4 watt, così non scalda quasi niente, toccando le alette che ha dietro, sono fredde, capito? Niente, adesso avrò modo nei giorni successivi di provarlo ancora. Se hai da fare, Marco, non ti mettere problemi, fai pure, io rimango in ascolto, tanto mi devo cambiare anch'io che mi tolgo questa divisa e mi metto comodo, capito? Fai pure, dai, adesso poi già entrerà qualcuno, immagino, e io finisco di mangiare, dai, oggi tutto ritardo fatto. Ciao Carlo, ciao. Ci sentiamo, grazie delle due chiacchiere, Marco, non nessun problema, quando vuoi bussa, già siamo qua, io rimango in ascolto, se qualcuno poi vuole entrare volentieri, tanto impiego 5-10 minuti, mi cambio, bevo anch'io qualcosa, mangio qualcosina e poi già sono qua in ascolto. Alle prossime, ciao Marco. Carlo. Eia. Marco non mi sente, non mi ascolta con l'antennino, vabbè. Ciao Luca, sono piena. A dopo. Luca, l'hai sentito, Marco sta mangiando. Luca. Sì, un attimo. Ciao Carlo. Ciao. Allora, la radio già va bene, per cui non ti devo dire niente. E allora Giulio, oggi sono rientrato prima, che eravamo in tanti, ho chiesto un permesso alle 5, ho mollato gli ormeggi e me ne sono rientrato. Ehi, hai fatto bene, hai fatto bene. Comunque tieni a memoria questa modulazione e poi ti faccio sentire quello simile al tuo. La differenza, questo è un 23 canali di 50 anni fa. Ma già va bene, si sente bene, anche il segnale è buono. 9 più 20 che mi stai arrivando qua, Giulio. Sì, 3 watt e mezzo, una cosa del genere. Adesso se mi dai 2 minuti, o se devi andare a mangiare, casomai ci sentiamo dopo. Vai, voi Carlo, non ti trattengo. No, mi devo cambiare e poi sono qua in cucina che mi mangio qualcosina, ma posso stare in ascolto. Se mi dai 5 minuti e poi sono qua. Ci sono anche 10, anche 15, non c'è problema. Ci sentiamo più tardi allora, e a dopo. Ehi, grazie Giulio, a più tardi. Beh, ciao Giulio. Ciao Luca, tieni a memoria questa radio Luca, e vediamo un po' se è migliore questa con questo baracchino o con quell'altro che dopo ti faccio sentire. Beh, io sto usando quella radio là, sembra tutto a posto, se mi stia andando bene, riparata. Oh, stavo cercando quella staffa, ne ho trovato una da 20 cm, quella è troppo grande per te. Vabbè, è modificabile, basta tagliarla e saldarla, non c'è problema. Però ci dovrei avere anche gli altri, ma gli altri non li ho trovati, vabbè che dovrei smontare mezza casa per trovarlo. Ci vorrà un po' più di tempo, cercherò ancora, non lo so. Il microfono l'ho trovato comunque, il microfono, un microfono da palmo, quello che ti serviva. Ehi, vabbè, se non lo usi, te lo volevo provare in quella apparecchietta là. Niente. La staffa, perché io ce l'ho stesso, ma è troppo larga, capito? È 3 cm almeno più larga. Quella che ho trovato io è 20 cm, 20 e 5 mm per l'esattezza, che praticamente è grande, era del 450, era 450 Intec, e per cui, però basta tagliarla da un lato, si salda e poi si levi, va bene, con la mediatrice si può anche tingere, non è un problema. Lo so, per tagliare quella taglio questa, capito? E appunto, sì che al limite, ma gli estremi sono i rimedi, no? Beh sì, quello sì. Perché non so se questa è forse del Texas questa, Texas mi sembra più largo dell'Alan 48. Non so. Poi ho tirato fuori il 50-24, ma non l'ho portato giù, lo dovrei un altro momento, adesso che ho troppe cose, se no confondo troppe cose, non mi interessa, lo faremo un altro momento, la prova, quando, già so comunque già funziona, già so che funziona. E io, chiama Gava. E io qui. Commutatore d'antenna, ma non serve, 4 sulli, non chiude bene, è a 4 posti, a 4 commutate, ma non va bene perché il ZG, dunque non chiude bene, nuovo, però non chiude bene, non mi piace. Ah, non ti piace? Non mi piace perché non chiude bene, non può andare bene così, secondo me, è uno di quelli ZG, è nuovo veramente. Però non chiude come dico io. Ah, boh. E vabbè, mi servirebbe un CO201, quello andrebbe bene magari, una cosa del genere, ma comunque non mi interessa, a tutti i musini. Ma hai visto quel video giù? Luca. Che differenza c'è di radio? Ho cambiato la radio, ho cambiato il microfono, sembra quello. No, l'altra mi piace molto di più, anche se in questa c'è l'eco. L'altra ho cambiato il microfono, perché questa fa cupa, capito? Mentre l'altra è più chiara e più squillante. Ah, ho capito, se faccio così se faccio così cambia niente, va bene così. No, non ha cambiato niente, la tonalità è sempre uguale. Ah, ho capito, ma mi preoccupa come cosa, di come modulazione. Sì, rimane più cupa, l'altra è più chiara. Sì, ho capito, e va bene, lo stesso. Questa è un'altra cosa comunque. Quella non si sa, è uno anni 50, anni 60. Sì, guardate la differenza di una dell'altra, ti ho mandato il video. Ah, le hai registrate tutti e due? Sì. E dopo li ascolto perché ce l'ho giù il telefono. Questo è un altro mondo, Giulio. Cioè, questo è migliore secondo te? Sì, questa è più chiara la radio, più, insomma, più suoni sento, anche se ha l'effetto eco, però è buona, buona la radio. Ok, vabbè, l'effetto eco lo posso eliminare, faccio così e l'eco non c'è più, che io non lo uso mai adesso perché stamattina stavamo facendo delle prove, se no non mi interessa l'eco. Comunque, però a secondo della potenza, così ad esempio, guarda il segnale adesso Carlo, il segnale guarda adesso, e dopo mi dici quest'altro segnale, guarda, così, ecco così, vai. Allora, con uno scende a 9, con l'altro mi va a 9, 9 più 20. Ok, sì che siamo lì, là, ho capito. Ho capito. E vabbè, quell'altro di poco fa, il marchio poco fa era una radio degli anni 70, per cui 50 anni fa. Però fa ancora il suo lavoro, non è che ci andava bene anche quello, però con questa magari è un'altra cosa. Ok, sì. Sì. Beh certo, cambia, cambia sicuramente. Vabbè, questa è moderna. Dimmi una cosa, il TOS ce l'ha quella radio tua, quella nuova, il TOS ce l'ha. E cosa sarebbe giù? Che adesso tra le mille cose che ho letto questa non me la ricordo. Dovrei prendere il libretto delle. Aspetta che ce l'ho qua, dai, il libretto delle istruzioni. Che funzione è? TOS è il coso, il rosmetro, è il rosmetro, dai, si può chiamare anche TOS, è il rosmetro, oh Carlo, il rosmetro, che avendo a fare così le stazionarie, io in questo momento ho uno 1.0 le stazionarie, naturalmente programmato, è chiaro. Ah, eccolo qua, sì che ce l'ha, ed è di default, è attivo, è, praticamente TSR. Sì, TSR, sì, è vero. E guarda che io, vabbè, tu ce l'hai in lingua inglese, ce l'hai il libretto di istruzione. Sì, esatto, in inglese. Non ce l'ho in italiano, non l'ho trovato, ho provato a fare una ricerca sulla rete, ma tutto o in inglese o in francese. E altre lingue, forse in tedesco l'ho visto, ma non l'ho scaricato perché tanto io ce l'ho in inglese, me l'hanno mandato, e in inglese e in francese. Ok, ma se vuoi ti mando io il link dove trovarlo, a me me l'aveva dato Marco gentilmente, in italiano c'è tutto, è relativo al 5005, però va benissimo perché ha le stesse funzioni, visto considerato che ce ne sono almeno 14-15 marche che hanno tutte le stesse funzioni uguali, identiche. E quando hai tempo mandamelo volentieri quel link, così vedo un po' se cosa trovo in italiano, magari perché queste CRT magari si assomigliano tutte, tra il 9009, il 6009, il 55, più o meno saranno quasi poche differenze, capito, di funzioni, magari cambia solo il watt in trasmissione, qualche altra cosettina, però all'80-90% dovrebbe essere tutto uguale. Sì, le funzioni sono quelle, a parte il discorso potenza, che è quello più potenza, quello che hai tu, e dunque tutto il resto è uguale, cambia magari il disegno della radio cambia perché è diverso, però le funzioni quando entri nel menu sono sempre quelle, Sì, dopo ti mando il link, ti mando e così te lo scarichi e te lo puoi fare. Io dopo che me l'aveva mandato Marco me lo sono scaricato dal computer e ce l'ho in italiano, anche se è quello relativo, come ho detto, al 5005, però è identico, non cambia di una virgola niente. È buono. Comunque le funzioni, insomma, più o meno dovrebbero essere quelle, perché questo c'ha pure il dual watch, capito? Mi sa che anche il tuo ce l'ha, questa funzione SVR, insomma, per controllare le stazionarie, poi c'ha iCut per tagliare, insomma, i rumori di fondo, eccetera, NB, ANL, poi c'è la funzione Echo, che non ho capito a cosa serve, non so se Echo per ecologico sta o per Echo, come funzione. Ecco come funziona, è questa praticamente, questa qua che ti ho mandato adesso, che può cancellare la vostra carta, questa, sì, c'è anche quello, c'è anche l'alimentazione, adesso l'ho staccato, ecco, c'è anche il valore dell'alimentazione che gli stai dando alla radio, questo funziona da 11,4 fino a 16 volt, può funzionare, però io ne do solo 13,8, ti appare nel display, ti appare il voltaggio dopo che tu hai programmato il menu, il funk, diciamo, no? Funk, e poi ci sono tutte le voci che puoi stabilire cosa fare, cosa avere il rosmetro, o avere l'alimentazione, o avere tante altre cose. E piano piano devo imparare un po' ad utilizzarlo questo, ancora le funzioni non le ho sfruttate, capito? Okay. Vabbè, poi c'è anche la Roger Beep, c'è il dual watch, come hai detto tu, sì, questo trasmette in un canale, ascolti nell'altro e così via, c'è il cambio di frequenza, nel senso, per dire, non so, c'è uno che è leggermente fuori, tu puoi sintonizzarlo a un Hz per volta, a 10 o a 100 o a 1000 addirittura, per dire, no, lo puoi sintonizzare così anche tramite il clarifier. Sì, esatto, e poi le provo, dai, ancora mi devo abituare, ci devi un po' smanettare prima di prendere il dominio di tutti i tasti funzione, come tutte le cose nuove. Okay. Poi c'è la scansione anche, che c'è la ricerca automatica, dove c'è trasmissione, si blocca da solo, così via, poi qualche altra cosa. C'è il più 10, il meno 10, con un tasto puoi cambiare la frequenza, anche volendo, poi cosa c'è da dire, vediamo se trovo qualcosa. Ah, c'è anche l'SVR doppia, cioè SWR, cioè che lo smicchia sempre, no? E quello lì ha due funzioni, uno è con quello, tramite le barrette del LED, oppure direttamente al numero. Ci sono due funzioni, due volte, uno al numero direttamente, che c'è bello scritto in grande alto, il numero alto meno 2,5 cm, se non anche di più, 1.0, oppure ogni barretta che tocca quando metti SVR, quello lì equivale a 1, 1,5, 1,2, 1,3 e così via, no? Sì, ho capito, e avrò modo di imparare bene, dai. Comunque, diciamo, come prima impressione positiva questa radio, ho fatto già qualche DX in banda laterale senza nessuna difficoltà, ma ho messo 10-15 watt e andava una bellezza. Diciamo che per adesso sono soddisfatto. L'altra aggiustata, forse domani vado a ritirarla se trovo un attimino, mi ha mandato la foto, praticamente ha sostituito il tasto nell'altra di accensione e spegnimento ed era partito quello, non era niente di grave, dai. Ok, per cui ce l'hai dubbio adesso, dai. Ho capito, va bene. Poi, per quanto riguarda il segnale, sia di ricezione che di trasmissione, è sempre l'orientamento è sempre sul fatto dei LED, no? C'è la numerazione, anche lì sicuramente è così. Per quanto riguarda il microfono, c'è il ricorso, lo squelch, il microfono con la centrale squelch, e poi ci sono altri due pulsanti, uno è per i canali a salire e uno per i canali a scendere. Sì, esatto. No, il display LCD è bello, eh. È bello perché ha i numeri belli grandi e poi puoi cambiare colore, insomma, già è abbastanza, mi sembra fatto bene come apparecchiatura radio. Pensavo peggio, invece pienamente soddisfatto per adesso. Sì, no, in quanto a quello, poi la numerazione è molto grande, sono altri 3 centimetri i numeri, per cui i numeri della frequenza, 3 centimetri sono altri. Poi c'è la NL, sempre nel ridurre un po' i toni alti, e dunque ti abbassa un pochino le interferenze di fondo. Oppure c'è anche un'altra cosa, l'eco, non l'eco, cosa vuol dire questa specie che guardo, perché non me lo ricordo bene, non me lo ricordo, ecco, Funko dice, cosa esce? HIQ, quello lì che fa la modulazione più corposa o meno corposa. Sì. Sto guardando qua, c'è il controllo anche dei, diciamo, dei voltage TDC, ma mi dice qua, e dovrebbe essere già attivo. No, per essere attivo, quando schiacci è che ti viene evidenziato, sia le stazionarie, se sono programmate, oppure il voltaggio, quando schiacci ti viene evidenziato nel corso del display, se non lo attivi non puoi vedere così. Sì, esatto. Diciamo quando parlo vanno sulle i LED, diciamo, della trasmissione, però se non parlo mi segna uno di stazionarie. Sì, l'antenna è così, quello che ti dà l'antenna, tu pensa che io con questo strumento tempo fa mi sono accorto che avevo l'antenna messa un po' male, nel senso che mi aveva segnato addirittura 3,5 di stazionari, infatti blocca tutto. E allora va bene che si blocca da solo, anche quello ha di interessante la radio. Se c'è qualche anomalia, sia per la tensione che per le stazionarie, si blocca, si interrompe la trasmissione automaticamente, fa un fischio e si interrompe automaticamente. E poi anche la lunghezza del QSO è programmabile a 180 secondi o sino a 600 secondi, mi sembra. Dunque, se tu lo programmi e tu raggiungi e superi quel tempo, stacca da solo. Quello l'ho potuto constatare perché mentre parlavo mi ha buttato fuori, praticamente l'avevo immaginato che ci fosse così ed era regolato su 180 secondi. L'ho lasciato così per adesso, poi lo cambierò, magari l'aumento, a volte fai qualche passaggio più lungo, se no ti tocca, insomma, prendi un colpo perché la radio ti avvisa anche col beep. Sì, quello è fatto appunto per il surriscaldamento anche, eccetera, capito? In modo che uno non faccia passaggi troppo lunghi, in modo che si stacca da solo, ti avvisa, programmato, e sino a 600 secondi comunque, 600 secondi, quanto che vale? 10 minuti. Esatto, ma così anche troppo 600, forse la metà magari è meglio. No, ma io me l'ho programmato a 180, tanto passaggi più lunghi di 3 minuti io non li faccio mai, assolutamente. Non va bene nemmeno fare passaggi più lunghi di 3 minuti, anche perché ci sono gli altri, ci sono che devono parlare, non solamente fare monologo da solo. Esatto, sì, infatti basta fare passaggi non superiori ai 5 minuti e magari molte volte il monologo annoia pure chi ascolta, dai. Infatti meglio dare spazio a tutti quanti. Luca, ci sei ancora? C'è quello che mi piace a me, a parte il 5005 è bello lo stesso, il X10 della Linco, molto molto bello. Sì, l'ho visto anche quello, indubbiamente una bella radio, è perché quando stavo decidendo su cosa prendere su internet stavo vedendo un po' di tutto, ce ne sono tanti, però ormai diciamo ho optato su questo perché praticamente l'altro all'inizio non mi ha assicurato che si potesse aggiustare, invece poi ha capito bene di cosa si trattava e l'ha aggiustato e niente, una radio in più fa sempre comodo, anche perché quella che ho in macchina è troppo piccolina e quindi sto pensando quella che ho aggiustato di metterla in macchina, capito Luca? Bravo, ma sì, poi ci vediamo quando vuoi. Sì, non è un problema. Mi guarda, io tanto domani mattina sono libero, domani mattina. Se ti va mi dici dove venire, io arrivo subito. Sì, va bene, ti mando un messaggio, non c'è problema. Devo, siccome li ho rimessi tutti insieme, devo riprendere, va bene, prendo una qualsiasi e te la taro, capito? Così poi vedi tu se c'è qualcosina ancora da ritoccare, perché un conto è una ringhiera, un conto è una macchina. Una mattina, sì, la tolgo e la preparo. Va bene, o mi mandi un messaggio o mi telefoni direttamente, come preferisci, tanto io domattina lo stesso penso di accendere anche la radio, per cui dalle 8:30 accendo e rimango in ascolto, se c'è qualcuno magari mi sentirai anche chiacchierare, fare quattro chiacchiere. Avanti Giulio. Ok, sì Carlo, ascolta, poi c'è anche un altro particolare che secondo me è anche molto interessante. Tu abbassi il refreno quando senti modulazioni anche di un solo coso, come si dice, bassissima, la senti lo stesso, però allo stesso tempo hai eliminato completamente il QRM, perché non senti nessun QRM, con modulazioni anche a Santiago 1 lo senti, benissimo la modulazione senti, questo per evitare completamente il rumore di fondo fra un passaggio e l'altro. Sì, bravissimo, questo ho avuto modo di provarlo e ti posso dire che funziona bene, addirittura all'inizio quando ho acceso la radio, forse l'avevo girato io, era tutto diciamo a sinistra, e dicevo questa radio non si sente, non si sentiva nulla, poi muovendo questo RF gain ho visto come funzionava e ti posso dire che quando lo metto al massimo senti, come hai detto tu, quelle modulazioni anche con un segnale bassissimo, capito? Si sente tutto. Sì, senti una modulazione pulitissima, senza il minimo di QRM, proprio anche con un volume di una certa importanza, anche la stessa cosa, senti benissimo, non c'è. Mi attendo. E per cui io infatti lo uso sempre così, con l'RFG tutto abbassato, intanto i segnali tutti riescono ad aprirmelo lo squelch, perché in pratica è come se fosse lo squelch non limitato. Però ho messo così e elimino completamente tra un passaggio e l'altro quel fastidioso rumore di fondo, proprio alla grande, niente, come silenziato, come il telefono insomma. Prego, buonasera. Ciao Gavino, buonasera, avanti. Buonasera Giulio, buonasera Carlo. Gavino qua al mic, sono entrato per salutarvi Giulio e Carlo. Avanti Giulio. Ok, ciao Gabi, è un piacere riascoltarti, hai fatto bene a salutarci, è sempre un piacere riascoltarti. Sì, c'è Carlo, c'è anche Luca Flipper, avanti Carlo. Ciao Gavino, buonasera. Luca mi sa che si è assentato un attimo. Ciao Luca, ci sentiamo più tardi se sei ancora in ascolto, magari sta facendo qualcosa. Sì Gavino, buona serata anche a te. Scommetto che sei rientrato da lavoro. No, ho lavorato oggi, caro, ho lavorato mezza giornata perché dovevo fare cosa qua a casa e ho lavorato mezza giornata, ho fatto giusto qualche cosa e poi sono tornato qua a casa. E niente, c'ho da sistemarmi un po' qua fuori perché adesso poi devo un po' assentarmi, quindi devo tagliarmi anche un po' d'erba, sistemarmi un po' di cose, dai. Va benissimo l'attività fisica. Io non ne faccio da parecchio di niente. Qua curavo le aiuole nelle cortile che abbiamo, ci sono quattro aiuole grandi, ma adesso è tutto pieno di tubi innocenti che abbiamo ancora i muratori, e questi pare che non se ne vogliano andare più, si sono affezionati al nostro condominio. Non posso aprire la serranda del garage perché c'ho l'impalcatura davanti, insomma una scocciatura, però speriamo vadano via al più presto. Prendi la mora e taglia tutto, prendi la mora e taglia tutto. Carlo, non avere pietà di nessuno. Avanti Giulio. Ok, Rabbi. Certo che sì, ma in effetti è così. Dimmi una cosa, Rabbi, siccome stiamo usando due radio simili, non uguali ma simili, e parlo solo di radio e non di segnale, il segnale già lo sappiamo che è quello di che ha Carlo e tutta un'altra storia, e poi lui ha anche la posizione, non c'entra niente. Sto parlando di radio, come timbrica, voglio dire, si rassomigliano oppure c'è differenza, a parte il discorso la mia voce o con la sua, eccetera, che poi quello è importante comunque, vai Rabbi. Guarda, a me le due modulazioni sono perfette, spettacolari, io non trovo differenze, magari Carlo arriva un po' più forte di radio, magari è proprio la sua timbrica di voce, però la radio sono belle, sono perfette tutti e due, sono perfette tutti e due. Segnali Giulio, tu senti anche il segnale, se è un segnale di 9.5, Carlo mi arriva a 9.15 pieno. Avanti Carlo, fammi un passaggio così posso dare ulteriore conferma. Rientrato. Io niente, sto uscendo con ho regolato a 4, aspetta che regolo meglio. Allora adesso sono con 4 watt in questo momento, 4 giusti. No, mettimi 2 Carlo per fare il rapporto, come sto usando io 2 watt, mettimi 2 watt metti, così sentiamo il rapporto di bambino. Sì, adesso regolo a 2. Allora, ecco, così ce l'ho a 2. Allora Carlo, la radio è rimasta invariata, la radio è rimasta invariata, la modulazione è sempre buona, però sei sceso un segnale, però adesso io i segnali non ve li posso dare perfetti, perché un'antenna particolare, quindi non vi posso dare un segnale perfetto, è sempre un'antenna verticale, però vabbè, vi mando la foto. Però le radio sono buone tutti e due, e hanno la stessa dinamica, a parità di watt. Va bene, io così sono al minimo proprio, Giulio. Rientrato. Adesso, da sempre io lo sto sempre usando, se dovessi aumentare registrato ma ad esempio 3 4 watt, adesso 4 watt è come ce l'avevi tu poco anzi, però lo riporto a 2 di nuovo, ecco, adesso è a 2 così, microfono e l'MB più 4, vai Gabi. Sì. Quando l'hai portato al 4 watt si è salito anche di segnale, e niente, però la radio giusta è rimasta invariata, un pochino più, poco più presente, ma niente di che, perché è già abbastanza presente con 2 watt, No, dico che ho benissimo, avanti Carlo. È meglio così, mi sa che lo lascio al minimo adesso, con 2 watt va più che bene, per città sino a Porto Torres ci arrivo con 2 watt, poi se c'è bisogno si può aumentare all'occorrenza. Sì, vanno benissimo Carlo, riprendi Giulio. Ok, sì, io lo uso sempre a 2 watt, per vari motivi Carlo, anche perché scalda di meno, che chi me lo fa fare. accettabile ugualmente. Mi sento anche a Trentino con due watt, mi sentono a Muros, mi sento a Porto Torres, alla Grande, perciò no, che problema c'è? Va bene così Carlo, io non lo sforzo troppo, capisci Carlo? Sì, esatto, è rientrato Marco. Avanti Marco. Cappa, buonasera, che è entrato, mi pare Gavino. Sì, sono entrato, vista diciamo l'occasione per rispolverare questo apparecchio. Sto usando lo stesso apparecchio di Carlo. Era fermo da alcuni mesi, dai. Vediamo se è tutto a posto. Giulio, riprendi. È perfetto Marco, è perfetto alla grande, no, non c'è che dire. Cosa vuoi che ti dica? No, non ti posso aggiungere niente da tutte le volte che ti ho sentito, perché esci benissimo alla grande. Vai Gavin, tu che sei più lontano, Marco magari avrà necessità di un rapporto anche lui, vai. Ciao, buonasera Marco. Io per esempio, io a Marco copio la radio di Marco, è più forte. Sì, la radio di Marco, non so quanto sta uscendo lui, però diciamo molto più presente di te, di Carlo Giulio. Avanti Marco. Sì, come dicevo l'altro giorno a Carlo, io ho fatto delle migliorie che ritenevo indispensabili, perché appena arriva con la radio, diciamo, è più chiusa, c'è il trimmer della M troppo chiuso a mio avviso. Guarda, ti faccio un paragone Carlo, che stai ascoltando, anche se sei vicino. Guarda, io adesso sono a tre dita, sto parlando a tre quarti dal mic, no? Adesso ho allungato tutto il braccio, sto parlando con lo stesso tono di voce e qua vedo che i picchi ci sono ugualmente, è come avere quasi un mic da tavolo, cioè che parli vicino o lontano ti sentono sempre bene, e diciamo aumenta molto la modulazione. Poi naturalmente se hai necessità di abbassarla per evitare rumore ambiente vai dal mic again. Carlo, come ti sembra? Diciamo come radio è perfetta, il segnale qua è praticamente 9+30, mi accendi tutto qua, va bene che siamo vicino, però come è allontanato si sente che da come parli vicino poi allontani il braccio, cambia qualcosina, però è ottimo microfono. Sì, premetto che il mic è quello di serie, cioè sto usando la stessa attrezzatura che hai tu, il tuo sicuramente è quello più aggiornato, molto più aggiornato, questo addirittura era il modello originale appena uscito. E poi per dirla tutta, ho guardato i prezzi attuali di questi apparecchi, gli stessi che avevo io, e i prezzi sono enormemente aumentati. Sì, è passato qualche anno, però caspita, non mi aspettavo un aumento di prezzi del genere. Io li ho pagati molto ma molto meno, a parte che era, diciamo, un prezzo di lancio perché gli apparecchi erano appena usciti. Riprendi Gavino, vado a bere. Sì, positivo. Carlo, io da te con che segnale ti sto arrivando? Poi faccio la domanda, poi passo la domanda a Giulio. Guarda un pochino il mio segnale nel tuo QTH. Avanti. Allora, in questo momento ho guardato, mi stai arrivando Santiago 8. Capito, Santiago 8. Positivo. Da Giulio a te come sono? Si può fare la gentilezza? Certo, guarda, intanto io ho cambiato microfono. Sì, 9.5 dovresti essere qua, stando, perché c'è il numero 9 che lo superi abbondantemente. Dovrebbe essere fra il 9.5, suppongo, e il 9.10. Suppongo che sia così il tuo segnale, capì? Adesso comunque ho messo il microfono originale. E molta differenza c'è, capì, da questo microfono a quello che stavo usando poc'anzi. Hai delle tonalità medio alte molto accentuate in giù, e la radio si è abbassata, il segnale è uguale, però hai delle tonalità medio alte, rimangono proprio le basse, diciamo, delle basse frequenze della modulazione, però ti copio sempre bene, ma era più bella, diciamo, era più dinamica la modulazione che avevi prima. Ho capito, e beh sicuramente sì, quello l'avevo previsto anch'io, che era migliore l'altra, indubbiamente, questo è quello normalissimo. Va bene, dai, ricambio di... di nuovo, ti prendi Carlo? Sì, sì, confermo, l'altro era più squillante il microfono, Giulio, però diciamo che anche questo non è male, non è male. Marco è da paura, qua mi arriva una bomba di segnale e anche di radio, ma siamo vicini, ecco Marco, per cui in linea d'aria è come essere a 100-200 metri massimo. Sì, ho messo i watt al minimo e non so quanti siano, non ne ho idea, però vedo che c'è qualcosa di strano, non sale lo Schmitzer quando parlo. No, sale, qua mi arrivi sempre a fondo scala, Io lo stesso sono nella situazione tua, praticamente quando parlo va su, si accendono tutti i led, se invece non parlo rimane a uno. Vediamo da Giulio cos'è cambiato, dai, in media distanza. Giulio, vedi un po', se poi vi dico il perché, ve lo sto chiedendo. Ma hai lo stesso segnale di Gravino, oltre 9 arriva la freccia, sempre su, considerando questi leggi, no? Dovrebbe essere intorno ai 9.5-9.10, o Marco, sicuramente il segnale è quello, perlomeno, stando orientativamente all'occhio, dovrebbe essere così. Ripeto, si sa, e quelli alledi hanno sempre una differenza rispetto a quella lancetta, non ci sono dubbi, con l'altro sicuramente più, però in linea di massima ho potuto constatare che diciamo che ci siamo, non è esattamente perfetto a quella lancetta, ma simile, molto, molto simile come segnali. Vai Marco ancora. Sì, sono sempre al minimo e proprio, no, non so quanti watt siano perché non ho strumentazione, però tutto al minimo. No, allora perché vi ho detto quella cosa? Aspetta che alzo nel frattempo, Eccolo qua. Perché che io ricordi questo apparecchio, allora vi puoi regolare la modulazione o giù di lì per la potenza massima, però dovrebbe avere, che io ricordi, dentro una regolazione anche della potenza minima per quanto riguarda la modulazione, e con un altro apparato che mi pare Giulio conosca bene, io non gliel'ho fatta quella regolazione alla minima potenza della modulazione, e infatti quando metti il minimo del minimo con quell'altro apparato la radio cade, perde molto. Qua lo stesso non gliel'ho fatta, però che ne so, magari qua è già tarata meglio di fabbrica, a parte che di fabbrica, lo dico a Carlo, questi apparecchi tutti hanno una taratura molto ma molto sommaria, per non dire inesistente, quindi ti trovi che nel FM c'è basso, in AM c'è basso, quindi puoi fare tante di quelle migliorie che non hai idea, anche a livello di centratura di ricezione per la banda laterale soprattutto. Riprendi Gavino. Sì, voi di radio a me come mi ascoltate? Buona o satura o va bene, o in lineare, una radio dinamica va bene? Allora la timbrica di ricezione di questo apparecchio è diversa dal solito che uso, però la modulazione la sento normale, buona, a parte il rumore che c'è sotto perché c'è un QRM, credo anche propagazione, ho molto QRM, il segnale è 8, allora ti spiego Carlo, mi si accende il 7, il LED del 7, però se voglio fare il confronto con tutti gli altri apparati, praticamente quando è il LED del 7 acceso e il segnale è 8, lo interpreto così, è più coerente che tutti gli altri apparati, è come se fosse un po' tirchio, ecco. Vai Carlo. Sì, infatti anche io a Gavino gli ho detto che mi arriva 8 qua, capito? E a dire la verità, forse con le altre antenne, che magari sono quelle verticali, arrivava forse più, con più segnale, la radio va bene, con la verticale magari va meglio, perché lui sta, sbaglio Gavino e me lo confermerai, sta uscendo con la direttiva. Sì, sto dando una 4.20. Anche quello vuol dire, cioè praticamente arrivi bene, però con l'antenna verticale arrivavi, diciamo, di segnale più forte prima, arrivavi 9.15 qua. Sì, infatti no, è orientata tutt'altra parte da voi, sto facendo questa domanda per quello, perché siete fuori fondamento. Vai Giulio. Gavino, interrogativo, com'è la polarizzazione verticale o orizzontale di quella che hai adesso? Adesso è polarizzazione verticale. Ok, va bene, sì, per avere un'idea sommaria, dai. Perché poi, se la polarizzazione è praticamente diversa dalla nostra, ci sono, anche puntandola, 20 dB di attenuazione. 20 dB sarebbero 4 punti S, 4 Santiaghi. No, lo ricordo male io. Comunque c'è una forte attenuazione, dai, se la polarizzazione non è uguale, ecco. Vai, Giulio. Sì, sì. No, forse 3 Santiago, credo siano 3 Santiago, perché se ricordo bene è ogni 6 dB un Santiago, se ricordo bene, adesso non mi sfugge in questo momento la memoria. Però ho notato che avete praticamente lo stesso segnale più o meno. Tu o Marco, quando moduli mi sale la lancetta oltre il 9-10 mi sale. Mentre invece quando sei in pausa che non stai parlando mi rimane intorno al 9,5, una cosa del genere, pari e simile allo stesso segnale sia di Carlo quando non parla e di Gavino anche quando parla. Capito come, Marco? Sì, K. Sì, ho notato che questo dà 8 watt quando è portante muta, tipo 12, 13, forse anche 15. Però quando moduli dovrebbe arrivare una trentina di watt, almeno quando fischi. Qua ti faccio il paragone. Sì, è così, Marco, è così. In effetti è così. No, stavo pensando adesso, stavo riflettendo un attimino a riguardo del segnale che avevi detto poc'anzi, cioè dei dB. Se ricordo bene, ogni 6 dB è un Santiago, se ricordo bene. Dunque sono 20 Santiago, 20 dB, e se per 3,18 siamo intorno ai 3 Santiago più o meno. Adesso non vorrei sbagliarmi, sono un po' indietro con la memoria per quanto riguarda queste cose, ormai non mi sto più interessando più di tanto. Avanti Carlo. E insomma, dai, già siamo sistemati bene, comunque ci sentiamo tutti belli forti e chiari, già va bene così. Sì, vediamo se c'è Natalino che ci ascolta. Natalino evidentemente non c'è, perché se non riprende vuol dire che non c'è. Stamattina ci siamo sentiti, già l'hai sentito anche tu. Avanti Gavino, comunque ottima radio per tutti, non c'è che dire. Bella radio per tutti e buonissimo segnale. Ok, vai Gavino. Sì. Niente, io al momento, signore, devo chiudere la trasmissione perché devo continuare a fare un po' di roba fuori, altrimenti mi si fa buio e non ho concluso niente, che sto, diciamo, pulendo, sto togliendo proprio, ve lo dico, un po' di polloni dagli alberi di limoni, delle arance, perché devo dargli del trattamento al tronco, alla corteccia, quindi devo farlo per forza stasera. Ok, sono entrato a salutarvi e mi sono trattenuto per fare questo piccolo QSO, perché ne vale la pena, ne vale la pena, è sempre un piacere sentirvi, scambiare quattro chiacchiere e stare in vostra compagnia. Ci sentiamo tutto alle prossime se coincide, e quando vi sento io entrerò sempre per darvi i miei saluti. Buonasera Giulio, buonasera Carlo, buonasera Marco e a tutti gli amici SVL che sono all'ascolto. Buona serata a tutti e buon proseguo. Riprendi Giulio. Ok, sono io che ringrazio te Gabi per l'intervento e soprattutto per i segnali che ci ha dato, le risposte sui segnali eccetera. Va benissimo, comunque sappi che la notte quando c'è QSO vi ascolto, dopo la televisione io qua purtroppo non posso entrare perché a quell'ora c'è la televisione qui accesa che la segue mia moglie, ma non posso chiaramente parlare io, o si guarda la televisione o si parla alla radio. Però però vi ascolto anche sino a notte inoltrata, quando, fino a quando voi non chiudete. Mi fa piacere ascoltarvi ugualmente. Ciao Rabino, grazie ancora per essere entrato, ci sentiamo alle prossime. Avanti Carlo. Ciao Rabino, ci sentiamo sicuramente ai prossimi collegamenti. Vai Marco. Ciao Gavino, buon proseguimento di serata e ci sentiamo le prossime quando capita. Ok, io nel frattempo ho tolto il bip perché per non irritare, alla fine può essere stancante per chi ascolta, capo. Ma io sinceramente non ci faccio nemmeno caso, non lo uso io, non lo uso, però non dà fastidio assolutamente. Quello di Carlo invece è bitonale, a differenza del mio, Carlo, il mio è solamente un suono e basta, invece il tuo è bitonale a quanto sembra. Vai Carlo. Io ho scelto questo, ne ha 5, questo è da scegliere, mi sembrava quello un po' più adeguato, forse ce l'ha come quello anche che aveva Marco che ha tolto adesso, avrò modo di provarli. Una cosa Giulio, come si fa a inserire l'eco in queste tavole di radio? Allora c'è un interruttore, adesso ci dovrebbe essere anche il bip dopo che ti hanno parlato, c'è un interruttore, è doppio, è un doppio interruttore, devi accendere prima l'interruttore, uno di quei potenziometri, lo accendi e poi lo regoli aumentando o abbassando anche la tonalità, perché è un interruttore che ha il doppio comando, tu lo accendi e poi aumenti o abbassi a seconda di come lo preferisci, però c'è anche la tonalità del, cioè l'allungamento o l'accorciamento dell'eco. Vai, ce l'hai trovato, vai Carlo. Ecco, forse ho capito, dai, poi lo provo magari adesso per non stare qua a fare mille variazioni e regole di tante cose che ci sono, dai, ce ne siamo buoni a chiacchierare adesso, perché se no ci annoiamo pure con tutte queste cose. Oh, iaia. Quando cambi radio in effetti è così, hai voglia di imparare subito, però già c'è il tempo anche per fare tutte queste cose. Sì, Marco, ti volevo